Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film L'ultima luna di settembre di Amar Saikan Belginyan al cinema da giovedì 21 settembre 2023. Ben trovato. Buongiorno, ben trovato, ciao Federico. Raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta. Siamo in Mongolia, dopo anni passati a vivere in città, il protagonista, che si chiama Tulia, torna a vivere nella yurta del padre, del villaggio natale, per aiutarlo a portare a termine il raccolto che aveva promesso di completare prima dell'ultima luna piena di settembre. Il padre è molto anziano, quindi non ce la fa più a lavorare nei campi. Mentre sta appunto falciando nei suoi campi dietro la yurta, Tulia incontra Tunturei, che è un bambino di 10 anni, che vive da solo con i nonni ed è stato apparentemente abbandonato dai genitori. Quindi tra Tulia, questo giovane uomo, e il piccolo Tunturei nasce inizialmente un rapporto che sembra di sfida, ma che andrà poi via via ad allentarsi per far spazio più a un legame di stima e di condivisione. Ed è qui, in questi paesaggi sconfinati, colorati e caldi di questa terra ricca di tradizioni, che Tulia prenderà questo bambino Tunturei sotto la propria ala e scoprirà di essere in grado di dare a questo bambino tutto l'amore paterno che a lui non era mai stato dato. Cosa succede? Che però l'ultima luna piena di settembre sta per arrivare e a Tulia restano pochi giorni da passare insieme a Tunturei prima di fare ritorno in città. Quindi vivremo questa sorta di sospensione del rapporto che sembra che abbia una scadenza, si sentirà il passare dei giorni fino a quando il ritorno in città sarà sempre più vicino. Il film parla di una specie di tradizione della popolazione nomade mongola, e infatti il titolo originale del film, che ora purtroppo non sono in grado di pronunciare, ma tradotto in italiano sarebbe una cosa simile a l'autunno non tornerà. E questo perché in Mongolia la fine dell'estate coincide con un momento molto malinconico per le popolazioni, nel senso che è quel periodo che anticipa il ritorno alla scuola, il rientro in città e la fine dei raccolti. Quindi alla fine dell'estate, poco prima dell'autunno, in Mongolia si vive questo momento di grande festività per contrastare un po' la malinconia. E esattamente il film racconta proprio questi giorni che anticipano l'arrivo dell'autunno, quindi dell'inverno, e per i bambini soprattutto il rientro appunto dalle colline alle città. Infatti in film abbiamo anche queste festività che vengono celebrate, come ad esempio nel film si vede questo bellissimo festival dove ci sono corse di cavallo, tiro con l'arco, la lotta per bambini, e quindi il film racconta proprio questi pochi giorni che precedono l'arrivo dell'autunno. Cosa vi ha convinto dell'opera? Noi di Officine Ubu ultimamente ci siamo sempre più indirizzati verso una proposta cinematografica che guardasse oltre i soliti confini. Noi ad esempio anni fa abbiamo distribuito al cinema un film che si chiamava Lunana, il villaggio alla fine del mondo, che raccontava una piccola storia ambientata in Bhutan. Lì abbiamo visto che in realtà c'è molta attenzione del pubblico nei confronti di queste nuove cinematografie che raccontano paesi molto lontani, che portano in sale in Italia delle storie, delle culture, delle tradizioni che spesso vengono poco rappresentate al cinema. Quindi questo film ci sembrava una bella finestra da spalancare sulla Mongolia, che è un paese che raramente si vede al cinema. E questo per anche dimostrare il fatto che in realtà sì, la Mongolia è molto lontana, può anche essere molto distante da noi. Ma in realtà questa distanza è solo una distanza chilometrica, perché poi in realtà vedere il film, le stesse dinamiche che possono accadere noi accadono anche là, i rapporti umani sono sempre tenuti insieme da sentimenti e da emozioni che sono alla fine universali. Mi ci piaceva questo fatto di portare lo spettatore lontano, ma per raccontare una storia che parlasse a tutti. Che circuitazione ha avuto tra festival e sale cinematografiche all'estero? Questo, guarda, è un piccolo film, è veramente una piccola perla che purtroppo penso che sia stato anche penalizzato proprio dal fatto di provenire da un paese che fa fatica ad uscire, a proporre film che sta ad uscire dai propri confini. Quindi il film è circuitato in tantissimi festival in tutto il mondo, era stato amato anche qua in Italia, a un festival a Milano del cinema africano ed Asia. E noi, insomma, dato che il nostro lavoro è quello proprio di andare a sfumare queste piccole perle che magari non passano a quei festival più rinomati, che possono essere Cannes, Venezia, Berlino, ma andiamo a cercarli proprio nei festival più piccoli. E quindi ecco, è stata proprio una piccola perla che siamo andati a sfumare. In quante sale? Usciremo circa in 35-40 sale, ovviamente la prima settimana, e speriamo che il pubblico risponda bene, quindi in modo da poterci allargare. Ricordo ovviamente che, dato che tante persone si stanno scrivendo perché vogliono vedere questo film, sia sul nostro sito che sui nostri canali social di Facebook e Instagram di Officine Ubu, troverete l'elenco preciso con tutte le sale dove poter vedere il film. Il film L'ultima luna di settembre di Amar Saikan Belginyan al cinema da giovedì 21 settembre, distribuito da Officine Ubu. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola. A presto! A presto, grazie, ciao! Con Stefano Usardi, regista del film Senza età, al cinema da giovedì 21 settembre 2023. Ben trovato. Ben trovato anche te. Che racconto è il tuo? Il film è un road movie di questo ragazzo che parte da Padova, cioè sta scappando da qualcosa, e si butta dentro una casa di cura per anziani e sceglie un'anziana, la prende e la porta via, e partono insieme per questo viaggio. In verità dovrebbe essere una scusa per partire, vorrebbe lasciarla giù dopo pochi chilometri, poi lentamente nasce un'amicizia e continua tutto il film, e fanno questo viaggio, insomma. Come nasce questo film? Era da tanto che volevamo fare un road movie, parlo al plurale perché con la mia troupe siamo sempre praticamente gli stessi, questo era il sesto lungo mio, e c'era la voglia di fare un road movie, cioè quindi di spostarci, perché tendenzialmente siamo sempre fermi in una location. Invece questo film voleva viaggiare, e poi abbiamo messo dentro tutte le nostre caratteristiche, che sono sempre quelle un po' della messa in scena, della finzione, della menzogna, e è venuto fuori così. Com'è stato il lavoro di scrittura? È abbastanza semplice, dirò, perché sai, era la prima volta che mi confrontavo con un road movie, e si fa un po' da solo, cioè nel senso, se tu ti poni l'obiettivo in questo caso di arrivare ad Almeria a vedere la processione della Vergine del Carmine, e poi il film si è costruito da solo, praticamente io ho iniziato solo, c'era questo soggetto appunto di questo ragazzo che entra in questa casa di cura, e poi pian pianino è venuto tutto da sé. Non è stato difficile, nel senso che la sua linearità ce l'ha, infatti poi il film risulta abbastanza omogeneo rispetto ad altri miei lavori magari che tendenzialmente sono più frammentati, in questo caso è molto lineare, insomma, pur accadendo mille cose all'interno che lo squilibrano, però non è stato complessissimo. Com'è stata la scelta degli interpreti e com'è stato interagirci? Io cercavo un'anziana che però avesse anche ancora dell'energia, perché è stato molto difficile la realizzazione, perché è stato un mese dell'estate scorsa che c'era molto caldo, e in più noi l'abbiamo girato tutto il mese di agosto e arrivando appunto in Spagna, quindi è stato molto molto difficile, ecco, anche dal punto di vista fisico. Nel film l'anziana ha un'età scenica di 80-85 anni, poi in verità è molto più giovane la protagonista, è stata truccata molto e è riuscita a portare a casa il film. Il protagonista invece l'avevo già visto, io avevo un volto che mi piaceva molto perché ha un volto particolare, Jacopo Garfagnoli, e poi io lavoro spesso con tanti attori con i quali ho già lavorato, ad esempio Matisse Vigna, Bob Messini e tanti altri, ho il mio giro di attori. Su quali elementi hai voluto concentrarti? Sicuramente anche questa è un po' la caratteristica dei miei lavori, su un rapporto d'amore straordinario, nel senso che non è tra una coppia classica, ma è appunto una signora di oltre 80 anni e un ragazzo di 20 anni. Quindi è un amore quasi, dire spirituale forse un po' esagerato, però è un amore che va oltre l'età, che va oltre le contingenze. Insomma, era questo un po' il punto che mi interessa molto, perché anche il film a cui stiamo lavorando adesso, che sarà il Coltest, che realizzeremo l'estate prossima, c'è anche qui un amore da un padre e una figlia, insomma, sono visione diversa dell'amore. Questo mi interessava. Che scelta distributiva avete fatto? Ti dirò, c'erano state tra virgolette più offerte, perché poi il film è piaciuto insomma anche ai distributori, e abbiamo scelto la Draca, che era quella che insomma come progetto ci sembrava il più interessante, che è poi anche adatto alle nostre dimensioni, diciamo così, non essendo un film di una grande casa di produzione, ma essendo più indipendenti, e quindi anche questa cosa che poi ha anche un pregio, perché non abbiamo dovuto così sottostare a regole di bandi o di film commission varie, che tu saprai meglio di me di come si stanno comportando ultimamente. Ormai, passami la cosa, il bollino MIBACT è quasi controproducente ormai, una volta era un segno di prestigio, no? E invece ultimamente a me sembra quasi che sia diventato un segno di bassa qualità, e questa cosa è abbastanza paradossale, però sono scelte che fanno a livello politico e non le contesto. Però tu vai a vedere i film adesso, quando vedi il film commission del Lazio o del Trentino o del Friuli o dell'Emilia, ormai mi sembrano veramente diventati al servizio delle produzioni, non voglio dire qualitativamente scarse, però clientelari, ecco, direi così. Quindi sono molto orgoglioso che noi facciamo ancora cinema indipendente, ma proprio indipendente da tutto, e grazie anche alla produzione, poi ovviamente, che è la Fifin di Caterina Francavilla, che questi ultimi film insomma mi sta producendo senza imporre nessun tipo di pressione, cioè ci si lascia molto liberi. Abbiamo dei budget piccoli, ma sono dei budget veri, che poi rispettano sempre tutti e riusciamo a portarli a casa. Quindi la Draca in questo caso è molto adatta al nostro tipo di film, perché è la stessa cosa nella distribuzione, ci sono molto seri, curano insomma le sale, le uscite. Poi ovviamente non usciremo in 180 sale contemporaneamente, però insomma avrà il suo percorso. Per sapere dove vederlo ci sono dei riferimenti web? Ovviamente il sito della Draca, poi le pagine dei social varie, e io avevo visto che era uscito anche qualcosa su Appuntamento al Cinema in TV, sicuramente nelle regioni del Triveneto sì. Bisognerà stare connessi, tra virgolette, per sapere dove esce. Il film Senza età al cinema da giovedì 21 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Usardi. A presto! Grazie mille, a presto. Ciao. Con Christian De Matteis, regista del film Infiniti, al cinema da giovedì 21 settembre 2023, ben trovato. Ciao, ben trovato, ciao. Cosa racconta il film? Il film racconta nella maniera molto semplice una storia d'amore fondamentale, come non si era mai vista, come dicono tutti. No, in realtà sì, raccontiamo una storia d'amore, una storia che ovviamente ha un suo percorso, inizia, si sviluppa e poi prenderà delle strade. Quella che prenderà ovviamente sarà il nucleo centrale del film. È sicuramente una storia che comunque nasce da un percorso anche personale abbastanza lungo e tortuoso, e quindi racconta comunque le difficoltà di questa coppia. Comunque in ogni caso è una storia d'amore che ovviamente incontra a un certo punto ad una sorta di stasi, e poi ovviamente prenderà una storia particolare. Il concetto dell'infinito è proprio quello che comunque partiamo da una questione modulare, che è quella che la coppia si conosce a Recanati, la città dell'infinito di due parti. E poi all'interno di questa situazione entrerà a un certo punto qualcuno che avrà un tatuaggio con il simbolo dell'infinito, e sarà il tipico termine incidente scatenante del film, che porterà alla consapevolezza che in qualche modo poi le cose si ripetono, le storie d'amore non finiscono mai. E insomma giochiamo un po' su questo discorso qui. Quindi alla base c'è un eco personale, e come nasce l'idea, il progetto del film? Nasce sicuramente dalla volontà di comunque raccontare sempre la difficoltà dei sentimenti, una cosa che nel mio percorso comunque da sceneggiatore e regista mi è sempre molto interessato, anche se io nasco come regista d'azione, di fiction, quindi ovviamente è tutt'altro, però insomma poi quello che comunque uno vuole sviluppare personalmente è sempre diverso da quello che poi fa nella maggior parte delle cose che porta avanti normalmente. Quindi sì, la volontà di raccontare comunque dei sentimenti, delle sensazioni più che altro, e quindi in qualche modo in questo film cerco di portare comunque sullo schermo. E la volontà anche di fare un film piccolo, un film più intimista di quelli che ho fatto comunque precedentemente, anche per una questione anche di facilità di trasmissione dei concetti, anche per questo motivo. Ecco, rispetto alla difficoltà dei sentimenti, su quali elementi ti sei voluto concentrare? sicuramente sulla difficoltà di portare avanti comunque una verità. È quello che secondo me è la cosa più difficile che c'è quando c'è una coppia. Ad un certo punto lo vedo nella mia vita, lo vedo anche nelle altre persone, portare avanti la verità. E comunque alla fine le bugie entrano sempre all'interno di questo percorso e in qualche modo si sa, in qualche modo si accetta, ma fondamentalmente poi quando vengono fuori è difficile poi conviverci. È un po' quello che in qualche maniera cerco di esprimere all'interno di questo film, con tutte le difficoltà del caso ovviamente. Com'è stata la scelta degli interpreti e com'è stato lavorare con loro? Gli interpreti sono una coppia fondamentalmente, Francesca Loi con la quale avevo già lavorato in Un amore così grande, il film che aveva visto l'esordio dei Ragazzi del volo, lì avevamo comunque già preso un'intesa e la volontà comunque di rivederci e lavorare insieme. Con il Covid di mezzo siamo riusciti a farlo 4 anni dopo l'uscita dell'ultimo film. Lei e poi Federico Lepera, un attore che ho visto a teatro e mi è sempre piaciuto molto. E comunque la cosa bella quando fai un film e quando fai un film su una coppia che tu metti a caso un po' i personaggi, quindi persone soprattutto che non si conoscono, e guarda caso poi la chimica che si crea tra di loro è successa veramente a livello professionale, e questa è una cosa che ti dà soddisfazione perché vuol dire che in qualche modo avevi visto giusto a mettere insieme gli ingredienti, ecco. Poi è un film che è un po' corale, sì, parliamo di una coppia ma alle fine entrano ovviamente all'interno di questo, diventerà un menage, quindi entrerà Gabriele Rossi, che comunque è un attore che ho sempre stimato molto, sia perché ha fatto un bel percorso come attore di teatro, comunque anche nella danza, e quindi anche poi nel cinema si è sempre in qualche maniera distinto, soprattutto nelle fiction. E mi sembrava giusto anche come physique du rôle per quest'altro personaggio, Jacopo, il terzo incomodo, ma fondamentalmente ci sarà anche un quarto incomodo, che è quello di Ignazio Moser, che interpreterà il ruolo di un commesso e che anche lui come quarto si intima all'interno di questa coppia. E per concludere, il quinto personaggio è quello di Greta, che è insomma la cattiva del film, interpretata da Michela Persico. Sì, è un influencer, non è un'attrice, ma insomma è stata comunque molto molto brava, secondo me, a in qualche maniera mettere degli elementi che comunque erano i suoi. Sicuramente ha dato quella fisicità e quelle intenzioni che comunque mi servivano per arricchire questo personaggio. Che scelta distributiva avete intrapreso? Il film uscirà nelle sale UCI Cinema fondamentalmente, però ovviamente un percorso che durerà non tantissimo, perché la destinazione sua è quella televisiva, essendo comunque un film creato più per la televisione che per il cinema, quindi spero che in primavera lo vedremo sul piccolo schermo. Per sommi capi dovrebbe essere questo leader, come per l'altro film. Il film Infiniti al cinema da giovedì 21 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Christian De Matteis. A presto! Grazie a te, grazie a tutti. A presto. Ciao ciao. Con Amedeo Fago, uno degli ospiti dell'evento Il Politecnico, una storia romana degli anni 70. A Roma, alla Facoltà di Architettura, Aula Fiorentino, il 22 settembre 2023. Ben trovato! Ben trovati a voi. Voglio precisare, alla Facoltà di Architettura della Sapienza a Valle Giulia, la famosa sede del 68, la battaglia di Roma. In cosa consiste questo evento? Io ho realizzato un film e successivamente è stato realizzato un libro sull'esperienza del Politecnico. Il Politecnico è stato un punto di riferimento molto importante a Roma dal 1974 fino al 2014 più o meno, perché è stato forse l'unico caso di un centro culturale polivalente, ma davvero polivalente nel senso che era un centro culturale che conteneva al suo interno una serie di laboratori artistici, di architetti, di scultori, di pittori, di musicisti, di teatranti, di cinefili, per cui era un luogo di incontro delle arti, che aveva anche uno sbocco verso l'esterno, nel senso che poi c'era una sala teatrale, una sala cinematografica, il Cineclub, un Cineclub che è stato anche insieme al Film Studio, sono stati i primi coinvolti per le estati romane organizzate negli anni 70 da Renato Nicolini. Quindi diciamo che il Politecnico ha avuto un ruolo molto importante nella vita culturale romana degli anni 70 e successivamente anche degli anni 80. Però la cosa interessante è proprio il motivo per cui si è deciso, io di documentare e poi di fare questo libro, è proprio la singolarità di questa esperienza, che credo che sia stata un'esperienza unica, forse anche in Italia, insomma, non mi risulta che ci siano, riferite a quegli anni, delle altre situazioni. Il documentario come è strutturato? È una narrazione di come è nata questa idea, di come si è sviluppata, e poi ci sono una serie di interviste dei primi artisti che hanno aderito a questa iniziativa, e poi ci sono materiali di repertorio, insomma è un documentario che racconta praticamente i primi 10 anni di vita del Politecnico, cioè dal 74 fino all'85-86. E il libro che è stato fatto successivamente è la stessa cosa, però con l'aggiunta di 2 appendici, una di documenti, anche documenti interni, privati, anche perché noi avevamo un Tazebao lì nel cortile del Politecnico, e quindi emergono anche questi contrasti, questa dialettica interna che c'era poi in questo gruppo composito, fatto di personalità diverse, quindi anche con punti di vista diversi. E poi c'è un'altra appendice che è stata abbastanza complicata da realizzare, però è, per chi ha vissuto quegli anni, molto interessante. Si intitola Giorno per giorno al Politecnico. Noi praticamente abbiamo ricostruito la programmazione di questo luogo, che appunto aveva una programmazione praticamente continua di teatro e di cinema, poi anche di musica e anche come spazio espositivo di arti visive. Quindi c'è questa specie di calendario in cui magari ha visto e si ricorda di aver visto un film al Politecnico dal 1974 al 1986, va a guardare lì e può scoprire in che giorno l'ha visto, in che anno, in che giorno. E per il resto è un libro di testimonianze. C'è una lunga introduzione che ho scritto io, poi c'è una prefazione dell'assessore alla cultura del Comune di Roma, professore di storia alla Seconda Università del Dottor, e poi c'è 2 testimonianze, una di Giuliano Scabbia e un'altra di Piero Stilio Rossi, che è un architetto che ha studiato il quartiere Flaminio in particolare, perché questo luogo era al quartiere Flaminio, e poi ci sono tutte le testimonianze di quelli che hanno lavorato lì per 40 anni, no? Dal 74 al 14. Per saperne di più sul documentario e sul libro, ci sono dei riferimenti internet? Il sito della casa editrice Tinia, c'è la scheda del libro e il documentario è stato fatto prima del libro, si parla di anni di lavoro. Dopo il 2014 il documentario fu presentato al Maxi, forse nel 18. Il libro è uscito da un paio di mesi, 2 o 3 mesi. L'evento Il Politecnico, una storia romana degli anni 70, documentario e libro, a Roma, alla Facoltà di Architettura di Valle Giulia, Aula Fiorentino, venerdì 22 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Amedeo Fano. Alle 16:30. A presto allora. A presto, grazie. Ciao. Con Cesare Petrillo, curatore della rassegna L'Eterna Illusione a Roma, Cinema Quattro Fontane, dal 24 settembre al 30 giugno 2024, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Aggiungerei che la rassegna di domenica mattina alle ore 11 è una matinée domenicale, che è stato uno dei pezzi forti del cinema Quattro Fontane in questi anni e quindi continua questo appuntamento. Come nasce questa rassegna? La rassegna nasce da una mia osservazione nelle precedenti stagioni al Quattro Fontane con il XX secolo, che il pubblico ha un grande piacere a riscoprire non solo i classici del passato, perché sono sempre stati dei classici, ma ha un piacere particolare nei classici più vecchi, parlo degli anni 30, 40 e 50, e soprattutto quando il film di domenica mattina è più leggero dei film drammatici, per cui la scelta è stata: facciamo 40 commedie veramente classiche, sono 40 commedie tra il 1932 e il 1949, gli anni più belli della commedia americana, e perché appunto c'è un pubblico che scopre o riscopre il piacere della risata fino a se stesso. La domenica mattina si esce, si rilassa, si gode e si dimenticano i guai per due ore. Per cui quest'anno sono banditi i film drammatici. Ci saranno le commedie con Cary Grant, Carol Lombard, Catherine Hepburn, Bill Malloy, William Powell, Lubitsch, Howard Hawks, Billy Wilder, insomma è tutto all'insegna della risata. Quali sono i soggetti coinvolti nella rassegna? La rassegna si fa grazie all'intervento fondamentale di Circuito Cinema. Ci terrei a ringraziare due persone, Andrea Occhipinti e Fabio Cotè, che sono il presidente di Circuito Cinema e il programmatore, che sulle ceneri della rassegna organizzata dalla Cineteca Nazionale l'anno scorso hanno detto: ma continuiamo, è stato fidelizzato un pubblico, abbiamo la passione per il cinema classico, andiamo avanti. Quindi questa operazione è un'operazione naturalmente scala ridotta, parliamo di 40 film anziché 1250 della stagione passata, però è interamente autofinanziata e, ripeto, da Circuito Cinema Quattro Fontane. Com'è stata la scelta dei titoli? È stata puramente personale, solo personale, gusto personale. Parlo dei film che fanno più ridere, o almeno che mi fanno più ridere, anche quella risata soggettiva, per cui ogni volta che si opera una scelta si sceglie film, li sceglie sempre più o meno in base al gusto personale, e quindi in questo caso c'era da scegliere 40 commedie e tra quelle ho deciso quali sarebbero state. Naturalmente poi ci sono delle cose, dei dati oggettivi, perché quando parliamo di Lubitsch o di Frank Capra non è che io abbia fatto questa scoperta del fuoco, ma poi in realtà ci sono anche dei titoli abbastanza sconosciuti in Italia e lì me ne assumo tutta la responsabilità. I titoli sconosciuti sono La Bibbetica Innamorata, I Milioni della Manicure, Le Vie della Fortuna. Stiamo parlando comunque di grandi registi, non so, William Wyler o Mitchell Eisen, quindi della roba ottima che però è finita un po' nel dimenticatoio, anche perché in questi anni in Italia, diciamo, è finito tutto nel dimenticatoio, con la televisione che non passa più i film vecchi e la difficoltà di farli in sala. Mi rendo conto che in realtà anche film famosissimi come Accadde una notte o L'Eterna Illusione, Il XX secolo, L'Uomo Ombra, per dire, delle grandi commedie, i giovani non le conoscono, ma devo dire anche meno giovani. Dai titoli che erano celeberrimi come Arsenio e Vecchi Merletti, sono celeberrimi per una generazione, diciamo, dai 50 in più. Al di sotto è difficile trovare gente che li conosca, quindi si varia dai titoli più acclamati a quelli da scoprire. Le proiezioni saranno accompagnate da un'introduzione? Sì, sarò io che introdurrò i film, non ci saranno ospiti illustri, ormai è entrata questa abitudine di far presentare il film a qualcun altro, però devo dire che in realtà non ce n'è bisogno, perché è un pubblico talmente fedele, quello di Quattro Fontane, che non è che si vendano più biglietti se c'è un VIP che ne parla, ma non abbiamo bisogno del VIP. Lo abbiamo detto che saranno in versione originale sottotitolata, sono copie restaurate, digitalizzate? Io ho appena fatto il controllo delle prime 9 copie che sono restaurate, digitalizzate, e sono delle copie risplendenti, quindi non si avrà la sensazione di andare in quei cineclub dove si rompeva la pellicola, si accendevano le luci in sala, si vedeva male, no, saranno delle produzioni perfette. Ora, ripeto, ho controllato i primi 9 film su 40, però si inizia domenica mattina con lo sgargiantissimo Technicolor del cielo partendo di lui, c'è una... È una roba, è una festa per gli occhi, una vera festa per gli occhi. E per le orecchie, perché sentiremo in originale le voci di gente che conosciamo benissimo, appunto Cary Grant, Mirna Loy, Catherine Hepburn, con la loro vera voce, e quindi questo cambia. Il programma in rete dove si può consultare? Sul sito di Circuito Cinema. La rassegna domenicale L'Eterna Illusione a Roma, Cinema Quattro Fontane, dal 24 settembre al 30 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al curatore Cesare Petrillo. A presto! Grazie mille, grazie davvero. Con Bruno Bigoni, regista del film Cinque Stanze, al cinema da lunedì 25 settembre 2023, ben trovato. Grazie, buongiorno a voi. Che racconto è il tuo? Sai che è sempre molto difficile parlare dei propri film. Allora, Cinque Stanze è un racconto che parte da un'idea di dividere una vicenda in tanti frammenti. La storia è molto semplice, è la caduta di un uomo anziano che non si accorge di una moglie che sta molto male, praticamente è la storia di un amore finito che purtroppo poi lui questa cosa se ne accorge solo molto tardi. Ma in realtà la vicenda è raccontata spezzata in cinque stanze, come cinque luoghi diversi, come se questi luoghi in qualche modo contenessero e raccontassero il personaggio. Ogni luogo definisce il personaggio e il suo comportamento. Ciò che accade, cioè trova il proprio significato nella stanza in cui accade. Sono ovviamente riferimenti simbolici, spazi mentali, luoghi reali, ma anche immaginari. È un po' questa la storia di questo film. Sembra difficile, ma non lo è. Com'era nato il progetto? Nasce da una scrittura che io ho portato avanti per un po' di tempo, insomma ho fatto fatica a fare questo film, però alla fine ce l'ho fatta. Nasce perché quello che vedo intorno a me è sostanzialmente un disagio collettivo, una grande difficoltà a raccontare i propri sentimenti, a cercare di esprimere quello che uno sente, quello che uno prova. Ma soprattutto mi ha molto colpito e mi continua a colpire quotidianamente la parola violenza, magari un po' troppa, però di fatto è questa difficoltà che c'è nella comunicazione tra uomo e donna e questi sottili e continui forme di violenza anche psicologica che generano questa incomprensione. Quindi l'uomo in questo momento io lo trovo in grande difficoltà, mentre vedo che le donne sono molto più avanti rispetto a lui e quindi ho provato a raccontare questo disagio attraverso una coppia. E com'è venuta questa simbologia dei luoghi? La simbologia dei luoghi nasce proprio perché ho provato a individuare in ogni stanza. Prima ho pensato a una parola che racchiudesse la vicenda e le vicende e i personaggi che agiscono in quella stanza. E sulla base di quei concetti ho poi sviluppato la storia. Quindi nella prima stanza c'è l'incapacità, nella seconda c'è l'abbandono, nella terza c'è la solitudine, nella quarta c'è l'amore e nella quinta c'è il corpo e la sua espressione. Noi ci muoviamo e ci comportiamo in un modo per cui se riusciamo ad osservare come il nostro corpo si muove nello spazio, riusciamo magari anche a capire come gli altri ci vedono e ci percepiscono. Com'è stata la scelta degli interpreti e com'è stato il lavoro con loro? Con Riccardo Magarini, che è l'interprete principale del film, ho una lunga storia, nel senso che è un attore con cui lavoro da tantissimi anni, con cui mi trovo molto bene, è un attore soprattutto che ha uno spessore e una capacità di andare in profondità, per cui non ho mai avuto dubbio che lui fosse l'interprete di questo film. Poi ci sono tutti i personaggi femminili, tanti, c'è la moglie, c'è l'amante, c'è la prostituta, che girano intorno a questo uomo. Sono andato a scegliere attrici, soprattutto, in parte sono tutte attrici che poi conosco, con cui ho già lavorato, ma soprattutto attrici che avessero questa capacità performativa di riuscire a interpretare quella parte e quel personaggio, cercando di esprimere delle emozioni e dei comportamenti che solo quelle attrici potevano fare. Quindi sono state scelte proprio perché in quel personaggio io vedevo quell'attrice. Riguardo alla distribuzione, come ti sei mosso? La distribuzione di questo film è un po' particolare, ma so di tanti altri film che ormai si muovono in questo modo. Cioè il produttore, che è Alta Marea Film, Mario Castagna, ha deciso di produrre e distribuire lui stesso il film. Quindi una volta finito il film abbiamo cominciato a lavorare alla distribuzione, cioè a costruire una rete distributiva che partisce direttamente dalla società che ha prodotto il film. E devo dire che abbiamo cominciato ad avere degli ottimi risultati, perché il film esce in contemporanea a Milano, a Roma, a Firenze, e poi nell'arco dei prossimi mesi abbiamo tutta una rete di proiezioni, anche magari singole di un solo giorno, però in tante città, in tanti luoghi, per cui sta avvenendo una cosa, e secondo me è un po' il futuro di questo cinema indipendente che si muove in un ambito un po' difficile, perché combattere contro i film, contro i blockbuster è molto difficile, ovviamente. Ma qui in Italia ci sono tanti bei film, anche di tanti giovani, che verrebbe la pena vedere. E secondo me questo può essere un modo di far uscire i film. Il film Cinque Stanze al cinema da lunedì 25 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Bruno Bigoni. A presto! Grazie Federico, grazie a tutti. Buona serata. Con Albert Bucci, direttore artistico dell'ottava edizione del Soundscreen Film Festival. A Ravenna, Cinema Mariani, dal 25 settembre al 1 ottobre 2023. Ben trovato. Grazie a te, ben trovato, grazie a tutti i radioascoltatori. Come al solito, raccontiamo cos'è. Soundscreen è un festival di cinema in cui il nostro interesse è focalizzato sul rapporto tra suono, musica e immagine. Potremmo dire sì, per lo più cinema e musica, ma a noi interessa anche tutto il rapporto su quello che è il rapporto appunto del sonoro, dell'audiovisivo. Si sa che si dice audiovisivo proprio perché il cinema è fatto di immagini, che sono quelle su cui ci concentriamo di più, ma anche di una forte interazione con l'aspetto sonoro, che può essere in partenza musicale, ma non solo. L'edizione di quest'anno come si caratterizza? Si caratterizza secondo le nostre linee guida, che sono quelle di presentare un concorso internazionale per lungometraggi, uno per cortometraggi e soprattutto gli eventi satelliti, che sono il nostro fiore d'occhiello, e cioè le sonorizzazioni dal vivo di grandi film muti del passato, performati in sala da gruppi musicali di rock e new wave contemporanea. Quante sono le opere presentate quest'anno? Guarda, quest'anno siamo sulle 40 opere presentate. Ti posso dire che, per esempio, il concorso internazionale lunghi contempla sono 8 film, tra cui 5 anteprime europee, perché abbiamo 2 film dall'Iran, uno dagli Stati Uniti, uno dalla Macedonia, uno dal Sudafrica, uno dal Brasile, e 3 anteprime italiane. Un film dalla Grecia, un film dalla Cecoslovacchia e un film dalla Macedonia. E nel concorso cortometraggi abbiamo 21 titoli, di cui 11 anteprime europee e 8 anteprime italiane. Quindi arriviamo su una totalità di circa 40 opere, che a noi piace molto proprio perché cerchiamo sempre di proporre cose originali, cose di scoperta, film che non vedreste mai altrove, che neanche in piattaforma probabilmente capiteranno, ma che secondo noi sono estremamente belli, e sicuramente qualcuno di questi giovani registi diventerà poi famoso negli anni a venire. A proposito, poi, ovviamente, continua. Questo ovviamente. Oh, scusa, che ci siamo persi. Hai detto i giovani registi, questo ovviamente, poi ti ho interrotto. Ah, questo ovviamente ci fa piacere, perché noi cerchiamo. Questi giorni noi selezioniamo per lo più opere prime e seconde, giovani registi da tutto il mondo, anche perché ci interessa cercare gli autori del domani, quelli che magari qualcuno di loro un giorno diventerà anche, tra virgolette, più famoso, arriverà anche a essere più noto al grande pubblico. Non tutti lo faranno, ma a noi interessa anche, non dico essere dei talent scout, ma comunque mostrare film e comunque opere che abbiano una loro significatività. Faccio un esempio molto calzante: c'è un grosso frammento nel cinema iraniano odierno, non ci arriva nulla, però nella situazione sociopolitica in cui si trovano da diversi anni, i film che arrivano senza mai essere direttamente passabili di censura, comunque riescono a muoversi attraverso narrazioni che sono sempre ai limiti della cosiddetta legalità interna. Non ci arrivano, ma sono sempre molto forti, storie molto forti e significative, in cui si parla della nevrosi dell'essere confinati in una situazione di disagio esistenziale. Questo per esempio è un fattore molto importante per noi cinema iraniano. Abbiamo un Macedone che è, come dire, è un road movie molto divertente, anche spassionato, tra Macedonia e Albania. Anche queste sono tutte storie che bene o male faremo fatica a conoscere anche da un punto di vista normale di quello che succede in quei paesi. Il modo in cui per esempio alcuni documentaristi come Petros Kolotoros, che è greco, o Ivo Bistrikan, che è cecoslovacco, lavorano su una forma del documentario che è molto artistica, quasi minimale, quasi surreale se volete, e per noi è molto importante lavorare in questa direzione ovviamente. Questo riguardo appunto i concorsi, che sono una selezione di opere in anteprima inedite. Poi ovviamente la parte secondo me più spettacolare però è legata alle sonorizzazioni, perché quest'anno faremo, per esempio, tra le tante che faremo, avremo la sonorizzazione del Dr. Jekyll e Mr. Hyde del 1920, quella col famoso John Barrymore, cioè il nonno di Drew Barrymore, e poi un po' anche scanzonatamente Bruno Dorelli e Nicola Manzan ci propongono come produzione originale commissionata per il festival la famosa corazzata Potemkin di Sergei Eisenstein, che è quasi paradossale parlare di questo film attraverso anche il filtro mentale della famosa citazione di Fantozzi, mi spiego. Però ovvio, faremo qualcosa di forte e di dedicato, è molto importante. Aggiungo poi uno spaccato sulle produzioni dell'Emilia Romagna, perché faremo, tra le tante, faremo un documentario che è andato molto bene in Italia quest'estate, sta circuitando tra festival, che è appunto Cocorico Tapes, è un documentario sulla storia della famosa discoteca di Riccione, il Cocorico, dove vedrete appunto quelli che erano gli anni 90 in Riviera dal punto di vista di chi amava fare discoteca, ma anche creava un luogo performatico. Cocorico fu famoso, lì lo vedrete tanto, per le famose animazioni di teatro da discoteca. Vedrete tante situazioni e tante cose quasi commoventi, visto che adesso purtroppo il Cocorico è andato in malora per vari altri motivi. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Semplice, semplicissimo, www.soundscreen.org. Ottava edizione del Soundscreen Film Festival a Ravenna, Cinema Mariani, dal 25 settembre al 1 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Albert Bucci. A presto! A presto, grazie! Con Giulio San Giorgio, co-direttore artistico della 22esima edizione dei Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, a Trieste, Teatro Miela, dal 25 al 30 settembre 2023. Ben trovato. Ciao Federico e grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Per chi non lo conoscesse, cos'è? I Mille Occhi. Eh sì. Mille Occhi è un festival fondato 22 anni fa dall'Associazione Anno 1 di Trieste, e tra questi fondatori c'è Sergio Germani, che è uno dei più importanti e direi eretici storici della storia del cinema italiano, che per tanti anni ha proposto ogni anno dei programmi che sono veramente invidiati e ammirati in tutto il mondo per la capacità che ha avuto Sergio in questi anni di reinventare e ritrovare reperti, archivi, storie non raccontate dalla storia del cinema, soprattutto italiano, ma non solo. E da un paio di anni a questa parte, nello specifico tre edizioni, Sergio ha lasciato come dire, la direzione artistica, pur rimanendo, come dire, l'occhio scrutatore e un animatore instancabile del festival, l'ha lasciata Olaf Möller e a me, e cerchiamo di fare il possibile per continuare questa tradizione, che è una tradizione molto importante. Come si caratterizza l'edizione di quest'anno? Ma allora, quest'anno, cioè come ogni anno, ci sono dei percorsi che attraversano il festival. Quest'anno abbiamo pensato di fare un omaggio a una grande figura di sperimentatore multimediale, e una sorta di avanguardista litteram della società contemporanea, che è Giorgio Presburger, figura come dire, molto legata, profondamente legata a Trieste, che è stato un innovatore nella radio, nel teatro, nel cinema, nell'organizzazione di festival. Ad esempio è stato il fondatore del Mittelfest di Civitale del Friuli, e abbiamo a lui dedicato una mostra insieme all'associazione Presburger, una mostra che prima aveva itinerato al Mittelfest, e poi l'abbiamo accolta noi ampliandola, e poi con una selezione di suoi film, che sono film pochissimo visti, molto rari, ma in apertura proponiamo un documentario sulla sua figura, un documentario che abbiamo la fortuna di ospitare in prima mondiale, di Mauro Caputo, che è stato suo assistente e collaboratore per tanto tempo, e che racconta un po' la storia incredibile di questo grandissimo uomo di cultura e intelletto. E poi nel corso dei giorni vedremo delle sue opere, tra cui ad esempio Calderon, che è un film tratto da Pasolini e che chiude un po' una esperienza annuale che abbiamo fatto intorno a Pier Paolo Pasolini con masterclass e proiezioni. Poi abbiamo la continuazione di un omaggio a una grande attrice goriziana, Nora Gregor. Quest'anno presentiamo sempre in collaborazione con gli amici di Gorizia di Kino Atelier, presentiamo oltre alla regola du jeu, la regola del gioco di Jean Renoir, che è forse il suo ruolo più famoso, due film extra europei di Nora Gregor, che sono Da Bad the Flesh is Weak, che è l'unico suo film hollywoodiano, e poi una chicca appena restaurata dal Centre National du Cinéma francese, che è La Fruta Mordida, che è un film di Jacques Rémy, che era il padre di Olivier Assayas, quindi un grande cineasta di oggi. È un film cileno, un film apolide, l'ultimo film di Nora Gregor, che morirà di lì a poco, e che verrà presentato in sala con una presentazione registrata appositamente per noi da Olivier Assayas, che ripercorre l'avventurosa storia di questo film di suo padre. Poi ci sono altre cose importanti, insomma il premio anno 1 quest'anno va a Louis Correchy, che è uno dei grandi critici francesi, che ha animato per tanti anni le pagine dei Cahiers du Cinéma e poi soprattutto quelle di Libération. Correchy è veramente una sorta di eretico della critica, è stato anche regista, e noi presentiamo a Trieste un trittico di suoi film dedicati ai cinefili, ai cinefil, e poi dei film che lui ama molto, quindi di cineasti come dire, fuori norma, come Jean-Claude Brissot, un cineasta scandaloso che è stato anche condannato, Luc Moulet con il suo La Terre de la Folie, che è un film sulla follia, che ha attraversato il luogo inquinato e la sua famiglia, e poi altri film che presentiamo nella notte di fuori orario del 30 settembre, Raoul Walsh, Leo McCary, insomma film che Correchy ha amato, e tra l'altro abbiamo discusso con lui, abbiamo conversato con lui ampiamente, questa conversazione verrà sia presentata in sala che mandata online il 29 settembre, che trasmessa in televisione il 30 settembre, in questa lunga notte dedicata da fuori orario a Correchy. E poi c'è un grande omaggio ai 100 anni dei 16 mm. Il 16 mm quest'anno fa 100 anni, è un formato importante, e quindi presentiamo sia un workshop in cui degli studenti faranno dei film in 16 mm, impareranno a fare e sviluppare il 16 mm, e quindi come se fosse un formato ancora, un supporto ancora attuale. Ma poi presenteremo ad esempio un film girato al tempo in 16 mm che è Michelangelo Antonioni, storia di un autore, di Gianfranco Mingozzi, un film rarissimo che presentiamo nel suo supporto originale ed è uno dei primi film tritofilm italiani, cioè un film che fa critica di altro cinema. E poi I Piombi di Venezia, che è un film rarissimo, questo veramente introvabile, perché il 16 mm è stato anche utile nel corso della storia per preservare dei film girati in altri formati. E quindi questo 35 mm di un film di Vittorio Cottafavi, che è un regista molto vicino al festival, l'abbiamo ritrovato e riscoperto nella sua versione francese in 16 mm per l'appunto, e quindi proponiamo diversi modi e diversi usi del 16 mm. Ma per chiudere ci sarà anche un piccolo omaggio a Italo Calvino, i suoi 100 anni, con un dittico, L'avventura di un soldato di Mimmo Manfredi e L'avventura di un fotografo di Citto Maselli. Ecco, insomma, sono quattro giorni in presenza, uno online e uno in televisione, ma molto pieni, direi. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Sì, assolutamente, il programma si trova sul nostro sito milleocchi.com, dove si possono trovare anche i link per accedere al canale YouTube, dove verranno presentati dei contenuti, e alla pagina Facebook dove ci si può tenere aggiornati sul programma oltre che sul sito. Ecco. 22esima edizione dei Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti a Trieste, Teatro Miela, dal 25 al 30 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Giulio San Giorgio. A presto! Grazie mille Federico, grazie mille, a presto! Con la regista sceneggiatrice Flavia Montini per presentare la serie TV Più di chiunque altro, Generazione Z, su RaiPlay dal 26 settembre 2023. Ben trovata. Ciao, grazie dell'invito. Che cos'è questo progetto? Questa è appunto una serie, sono 6 episodi da 30 minuti l'uno ed è una serie di documentari, per cui sono storie di persone più o meno fra i 18 e i 26 anni, con insomma alcune eccezioni, in cui abbiamo provato a raccontare alcuni degli aspetti che ci sembravano più significativi di appunto questa che è nominata la generazione Z, quindi io direi dei giovani adulti che si affacciano appunto alla vita adulta portando con sé dei temi che sono cruciali di attualità. Quindi siamo andati a incontrare e raccontare le vite dei, per esempio, attivisti per il clima, persone invece che fanno parte dei movimenti del transfemminismo, gli studenti, diciamo giovanissimi, giovani insegnanti e studenti universitari. Quindi abbiamo un po' cercato di, attraverso le storie personali, andare a indagare e raccontare alcuni appunto aspetti del mondo di questi giovani adulti di oggi, con delle scoperte insomma molto interessanti. Abbiamo cercato di approfondire alcuni aspetti. Come era nato il progetto? Nasce dall'idea di una delle autrici, ne siamo un gruppo di appunto 3, quindi io con Sibilla Barbieri e Vittorio Parpaglioni Barbieri, e l'idea nasce da Sibilla, quella più adulta fra di noi, che ha avuto appunto l'idea di voler indagare, ho sentito evidentemente l'esigenza di indagare il mondo dei suoi figli, oggi ventenni, perché c'erano evidentemente degli aspetti che non riusciva a cogliere, che voleva comprendere, e così ha avuto l'idea di appunto scrivere questo soggetto coinvolgendo suo figlio stesso, quindi Vittorio, che ha appunto 25 anni, e poi appunto, giustamente credo sentito l'esigenza di una terza persona che potesse un po' traghettare il tutto in un prodotto, e quindi è nato così. La scelta dei vari soggetti? È stato un lavoro molto intenso il casting, perché appunto a partire da alcuni temi, ambienti, contesti, siamo andati a cercare le persone che potessero essere più, da una parte, significative per il tema, disponibili a raccontarsi anche in tempi brevi, perché la serie è stata scritta, girata e montata in 6 mesi, quindi avevamo bisogno comunque di persone pronte e disponibili, e quindi abbiamo fatto una serie, insomma, decine e decine di incontri per poi andare a a scegliere su 3 città e aree geografiche, che sono Bologna, Roma e poi la Puglia, per appunto individuare chi poteva essere tra i protagonisti del racconto. Che struttura hai voluto dargli? La struttura è una struttura che ha come base delle interviste, delle lunghe chiacchierate che hanno un taglio però molto intimo e personale rispetto alle storie, e poi abbiamo seguito i personaggi, insomma le persone, nella loro quotidianità e in alcune delle situazioni più significative. Quindi alla fine il racconto appunto è da una parte personalissimo, molto, perché soprattutto alcuni di loro si sono esposti veramente in maniera profonda rispetto alle loro esistenze, ma contemporaneamente andandoli a raccontare nei contesti collettivi, che possono essere le manifestazioni, appunto la scuola, quindi siamo stati in classe, e abbiamo cercato di quindi alternare un po' momenti più corali a invece momenti intimi, senza anche tralasciare dei contributi dai social, perché è tanta parte ovviamente anche questa, no, del racconto, che si fa personale, autobiografico in qualche modo, quindi dei nuovi diari digitali, e quindi ci siamo permessi di attingere anche ai profili social appunto dei nostri protagonisti, proprio per creare questa anche sempre alternanza fra pubblico e privato e poi tutto quello che c'è in mezzo. Che realtà ne viene fuori? Ne viene fuori, io credo, una realtà davvero molto molto interessante e tentativo, insomma, spero riuscito anche un po' fuori dagli stereotipi, nel senso che alcuni di loro sono molto consapevoli del mondo in cui sono e cercano di agire in questo mondo per cambiare un po' le cose. Mi riferisco in particolare evidentemente a tutto il mondo degli attivisti, attivisti per il clima, le questioni di pari opportunità, di genere, disuguaglianze, il lavoro, per cui c'è una grande parte che è di lotta, mi viene da dire, di impegno, di responsabilità e di consapevolezza. Un'altra parte molto interessante sono tutte le nuove professioni legate appunto al digitale, quindi abbiamo tra i nostri protagonisti dei gamer, quindi degli streamer, e che appunto sono mondi, per magari generazioni un po' più in là con gli anni, mondi poco comprensibili, ma che invece appunto sono semplicemente una fetta del mondo del lavoro, e quindi anche lì ragazzi molto giovani, tra i 20 e i 25 anni, che sono dei lavoratori del mondo digitale e che magari lavorano di notte perché streamano, no? Vanno online di notte, ma è una professione con tutto quello che ne consegue a livello anche di orari faticosi, sballati, in solitudine, per cui anche un grande impegno da questo punto di vista. E un altro aspetto che mi è da dire così sicuramente è questo discorso su una libertà dall'appunto giudizi e pregiudizi. Si è conquistata appunto probabilmente una maggiore libertà nell'esprimersi, nel dire chi si è, al di là del pregiudizio della famiglia, della società, ma anche di se stessi. Quindi c'è anche un grande impegno in questo, nel una sorta di liberazione e di discorso sull'identità, liberazione anche nel raccontare sulla salute mentale, no? Tanto si è detto anche in questi tempi, il fatto che non c'è paura di dire che si sta male e che così come curiamo la salute del corpo, si deve curare anche la salute della mente. E quindi credo che appunto è molto interessante in questo, perché si sono messi a disposizione per aprire dei mondi che poi è il mondo di tutti, per cui sicuramente è stato, insomma, un atto di grande generosità da parte di questi giovani a invitarci nelle loro vite. La serie TV più di chiunque altro, Generazione Z, su RaiPlay da martedì 26 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista sceneggiatrice Flavia Montini. A presto! Ciao! Con Lucio Cascavilla, co-regista del documentario The Years We Have Been Nowhere, al cinema da mercoledì 27 settembre 2023, ben trovato. Ciao Federico, grazie a voi per averci invitato. Che storia è questa? Allora, noi raccontiamo una storia di deportati. Io quando sono arrivato in Sierra Leone mi sono trasferito lì, ho cominciato a lavorare con un'associazione di ex deportati che aiutava nuovi deportati e mi sono trovato a dover capire quale fosse e cosa significasse il termine deportato. Ho scoperto che questi ragazzi con cui collaboravo e con cui lavoravo parlavano di rimpatri forzati. Normalmente questa è una tematica di cui nessuno parla. Sul tavolo della politica c'è sempre il tema dei migranti, ma sotto il tavolo praticamente avvengono questi rimpatri in silenzio, senza che nessuno sappia nulla. In genere sono i ministri dell'interno che dicono che hanno riportato a casa un tot di persone, quindi queste persone diventano numeri. Io quando ho scoperto questa tematica ho contattato il mio coregista Mauro Piacentini, che ha studiato anche all'Accademia del Cinema di Pechino, e assieme a lui abbiamo deciso di raccontare questa storia, queste storie che avvengono in silenzio. Quindi abbiamo raccontato la storia di tre di queste persone che, dopo essersi costruiti una vita, aver cominciato a lavorare nel civilizzato occidente, quindi in Germania, Italia, Inghilterra e Stati Uniti, sono poi, ed essersi costruiti una famiglia, sono stati poi forzatamente riportati indietro, lasciando dietro di sé i familiari, dei figli, delle mogli, dei partner, perché giustamente chi è che vuole trasferirsi da uno dei paesi, da uno dei 10 paesi più civilizzati al mondo, comunque più ricchi al mondo, a uno dei 10 paesi più poveri al mondo? Lo schema dei rimpatri funziona un po' alla stessa maniera ovunque? Più o meno sì, si viene praticamente bloccati dalla polizia, diciamo, soprattutto per dei disguidi burocratici o per dei piccoli crimini, quindi stiamo parlando di consumo e possesso di droghe leggere molto spesso, si viene internati all'interno di quelli che oggi si chiamano CPR, centri di permanenza in patria, e poi successivamente si viene forzatamente riportati indietro in catene. Molto spesso si viene le persone che subiscono il rimpatrio forzato, quindi la deportazione, vengono anche devono assumere alcune sostanze calmanti, perché spesso non vogliono tornare e combattono fino all'ultimo minuto. Alle volte si utilizzano dei voli regolari, quindi assieme ad altri passeggeri, altre volte con quelli più riottosi si prendono dei charter flight in cui sono scortati da 4-5 poliziotti più un medico che si prenda cura del fatto che loro vengano sedati praticamente. Senza poi togliere il fatto che la permanenza nei CPR possa essere più o meno lunga. Oggi leggevo appunto la notizia del nostro Presidente del Consiglio che diceva 18 mesi all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio, che è una cosa inumana. Come hai costruito, com'è costruito il documentario? Il documentario lo abbiamo pensato assieme a Mauro Piacentini, appunto, che è il mio corregista, e abbiamo deciso di costruire le tre storie in maniera parallela, quindi partendo da prima, noi l'abbiamo diviso in tre parti, diciamo, teoricamente, quando lo abbiamo scritto, quindi prima della deportazione, durante la deportazione e dopo la deportazione, perché il dramma più grande di queste persone poi è questo, che loro si infilano in un percorso che è quello del rifiuto continuo. Nel momento in cui gli viene rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, loro sono costretti a tornare. Quando ritornano a casa, loro vengono rifiutati un'altra volta, perché ritornano a mani vuote. Essendo stati dei migranti per cui le famiglie avevano investito e avevano spinto perché loro si trasferissero per avere un futuro diverso, ritornando a mani vuote vengono rifiutati dalle stesse famiglie. Questo significa che noi abbiamo dovuto far capire chi fossero loro prima di partire, che cosa avessero costruito nel paese in cui erano arrivati e soprattutto che cosa succede quando loro poi ritornano al punto di partenza senza appunto nulla in mano. Perché teoricamente se loro tornassero e decidessero di ritornare a casa con dei soldi da poter investire, quindi poter fare poter intraprendere una qualsiasi carriera, poter aprire un ristorante, un bar o una cosa del genere, sarebbe una situazione completamente diversa. Invece loro arrivano completamente a mani vuote, spesso hanno subito dei traumi, perché la permanenza nei CPR o comunque l'essere separati dalle proprie famiglie e dai propri figli e senza avere la possibilità di poterli rivedere, perché quando vengono espulsi quindi deportati, ricevono un marchio nero sui vari passaporti, e anche se facessero richiesta di visto non gli verrebbe accettato. Quindi noi l'abbiamo raccontato partendo da quando hanno deciso di lasciare il loro paese fino a quando poi sono ritornati nel loro paese. Che esperienza è stata per te? Allora, che esperienza? Questa è la domanda più difficile che mi potevate fare. Queste persone che vedrete nel film, quando andrete a vederlo, sono dei miei amici. Io ho lavorato con loro per 3 anni, tutte le settimane, tutti i giorni più o meno. Quindi io le conosco profondamente, io ho ascoltato le loro storie si sono sviluppate poco a poco. All'inizio mi hanno detto quello che era il prodotto. Poi successivamente mi hanno cominciato a dire anche quello che la prima volta mi avevano tenuto nascosto. Uno dei ragazzi che io ho intervistato, ho scoperto solamente, che è presente nel documentario, ho scoperto solamente dopo che era un bambino soldato, e lui chiaramente di questa esperienza non mi ha raccontato quasi nulla davanti alle telecamere, mi ha raccontato alcune cose in privato. È stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi, perché come dicevo già all'inizio, il problema è quello che di questa cosa nessuno ne parla, restano numeri, non sono esseri umani. Io e Mauro, il mio co-regista, abbiamo scoperto che alcuni di questi ex deportati hanno provato a scrivere un documento perché tutti i deportati abbiano una serie di diritti. Questo documento è stato rifiutato all'ONU e nessuno dei 190 e quanti sono paesi che fanno parte dell'ONU hanno accettato di sottoscrivere. Il problema principale è questo: nel processo di deportazione non c'è alcun rispetto dei diritti umani fondamentali, e questa è una cosa che noi abbiamo voluto raccontare a tutti quanti quando l'abbiamo scoperto. Quindi il problema principale è questo ci ha cambiato la vita. Esiste la Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, ma nel momento della deportazione questi non vengono rispettati, e questa è una cosa che fa male. Che percorso distributivo avrà? Allora, noi saremo per un po' nei cinema, diciamo fino intorno al 16 di ottobre, quindi saremo in varie città, saremo a Messina, Perugia, Napoli, Ancona, Milano, Fermo, Manfredonia, nel mio paese, e poi successivamente contiamo di portare il documentario nelle scuole e di lavorare con chiunque abbia voglia di invitarci. Noi abbiamo una pagina sul nostro sito internet che sono le iniziali del documentario praticamente, quindi sono tywhbn.it, e lì ci sono tutte quante le date. Se qualcuno ci vuole contattare, noi siamo disponibili a delle altre proiezioni successivamente, diciamo più che altro il prossimo anno, però vogliamo che questo documentario venga visto, vogliamo che questo documentario possa far capire che i numeri, le persone non sono numeri, gli esseri umani hanno delle storie da raccontare, queste storie vanno raccontate. Il film The Years We Have Been Nowhere al cinema da mercoledì 27 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Lucio Cascavilla. A presto! Grazie a voi, ciao, buona giornata a tutti, grazie. Con Vincenzo Sacco di Altre Storie, che distribuisce il film Il Grande Carro di Philippe Garrel al cinema da giovedì 14 settembre 2023. Ben trovato. Ben trovato a te e a tutti voi. Come lo racconteresti a chi ci ascolta in breve? È una grande storia di cinema pur non mostrando il cinema. Il Grande Carro appunto racconta la storia di una famiglia di burattinai che perde con la morte del padre, del capo famiglia, il suo baricentro, se vogliamo. E così, dopo tanti anni che la famiglia impiegava a far ridere i bambini con le loro marionette, a questo punto si trova a confrontarsi con una vita diversa, forse con meno risate, ma con più responsabilità. Quindi è una storia di illusioni e anche disillusioni. Racconta anche della crescita. Perché ho detto che parla di cinema senza parlare di cinema? Perché il papà è interpretato dal 75enne Philippe Garrel, che è anche regista del film, mentre i suoi figli sono lui Garrel, le sue figlie Esther e Elena Garrel. E quindi questa grande metafora di cinema, che il grande carro dei burattinai ha riunito la famiglia Garrel, e direi con grande successo, dal momento che Philippe Garrel ha anche vinto l'Orso d'Argento per la migliore regia all'ultimo Festival di Berlino. Cosa ti ha convinto di questo lavoro? Sicuramente Philippe Garrel non ha bisogno di presentazioni. Direi che il tratto delicato con cui ha raccontato questa storia, se vogliamo in parte autobiografica, come abbiamo detto, è sicuramente un tratto importante, perché sono appunto tante chiavi di lettura che si potevano dare. Però quella di una famiglia di burattinai che manda avanti un'impresa di famiglia, esattamente come chi fa poi coloro che vediamo dietro le quinte, poteva essere raccontato con appunto tratti delicati e pennellate molto dolci solo da chi appunto vive in prima persona e conosce in prima persona le difficoltà, anche le gioie che sa darti il pubblico. Per questo che altre storie insieme a Minerva Pictures, per appunto ringrazio Gianluca Curti, Santo Versace, ma anche Cesare Fragnelli, ovviamente, di altre storie che hanno deciso di acquisire il film, credo che sia un grande titolo per il listino Altre Storie per questa nuova parte dell'anno, no? Per questo semestre che ci accompagna verso la fine dell'anno. Che percorso ha avuto finora tra festival e sale cinematografiche estere? Il film debutta il 14 settembre nelle sale italiane, quindi potrà essere trovato nelle migliori sale di qualità italiane, in contemporanea con l'uscita francese. Contemporanea con l'uscita francese del film, proprio perché abbiamo voluto aspettare i tempi e fare un'uscita quasi in contemporanea. Loro sono usciti il giorno prima, quindi il 13 settembre. Quindi è finalmente giunto quel momento, no? Dopo questi mesi in cui abbiamo aspettato per realizzare una seconda promozione, cioè dal Festival di Berlino ad oggi settembre, finalmente potremo adesso ascoltare il parere di scontro del pubblico. Per sapere dove vederlo, ci sono dei riferimenti web? Sicuramente potete seguire tutti i canali social di Altre Storie, da Facebook a Instagram e altri canali di Minerva Pictures, dove ovviamente condividiamo tutti i materiali sul film e anche nella mia sale, dove è possibile vedere il film, speriamo ancora per lungo tempo. Il numero delle sale? Siamo in 50 sale distribuite su tutto il territorio italiano, da nord a sud, coprendo insomma tutte le maggiori città italiane, appunto da Padova a Palermo, da Firenze a Roma. Il film Il Grande Carro di Philippe Garrel al cinema da giovedì 14 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Sacco di Altre Storie che lo distribuisce. A presto! Grazie a voi, a presto! Con Chloé Barreux, regista del film Frammenti di un percorso amoroso, al cinema da giovedì 14 settembre 2023, distribuito dai Wonder Pictures. Ben trovata. Buongiorno. Che lavoro è questo? È un po' il lavoro di una vita, perché questo film si percorre il mio percorso sentimentale con tutte le immagini che ho ripreso dall'età di 15 anni. E ho filmato e fotografato i miei fidanzati e i miei fidanzati. Quindi il film si chiama Frammenti di un percorso amoroso e praticamente usiamo questi repertori insieme con le interviste dei miei ex. Io non sono presente nel film, abbiamo chiesto a loro di raccontare il loro punto di vista sulla nostra storia. Come nasce questa passione per la ripresa delle immagini fin dai 15 anni? Fare questo film è stato un modo di scoprirlo, è stata una scoperta un po' inaspettata, come un'epifania, cioè ho realizzato che probabilmente, inconsapevolmente, avevo filmato tutte queste immagini per poi un giorno farmi un film, ma non era una cosa consapevole, quindi il film è anche la storia di una vocazione. Io all'epoca filmavo, era il mio sguardo amoroso che tenevo sulle persone amate, e avevo bisogno di catturarmi, di inquadrarmi, di tenere, di sperare il momento. E la decisione di realizzarne un film com'è venuta? Non è il mio primo film, ho già lavorato sul materiale privato, mi interessa fare questo genere che io chiamerei documentario romanzesco, cioè uso materiali privati, materiali veri, ma con una scrittura romantica. E quindi in questo caso penso che l'amore è un tema sottorappresentato nel genere documentario e mi interessava invece parlare di questa esperienza che è così importante nelle nostre vite, questo tema così centrale nel cinema, attraverso un documentario. La scelta di questa struttura con interviste e immagini di repertorio? Era la possibilità per lo spettatore di identificarsi, perché la lei di cui parlano tutte queste persone, che sarei io ma che non sono presente nel film, è un personaggio di cui si capisce progressivamente la storia, ma proprio questa assenza compensata dai repertori filmati da lei di queste stesse persone che stiamo sentendo dà lo spazio all'identificazione dello spettatore. Quindi mi sembrava un dispositivo che funzionasse, che mettesse insieme il presente, il passato, gli altri e se stessi, insomma. Emotivamente cosa ha significato per te lavorare a questa operazione? Emotivamente non è stato semplicissimo, ovviamente, perché è una cosa rischiosa di chiedere agli ex fidanzati di raccontare la loro versione. È ovvio che ci sono delle cose scomode, dolorose, delle cose di cui non vado fiera, delle cose che vorrei che i miei suoceri non venissero a sapere, però invece da un punto di vista di regia erano cose che ovviamente erano importanti per la storia. C'è una storia di conflitto, di condizioni, un po' di regolamento di conti, quindi credo che la storia è più importante delle mie, diciamo, specifiche. Che opzione distributiva hai scelto? E direi la migliore, perché usciamo in sala con I Wonder, Andrea Romeo, che tra l'altro conosco da anni perché ero andata a Biografi in terzo da 10 anni fa con il mio primo film La colpa di mio padre. Un film su una storia d'amore che era quella dei miei genitori. E quindi ci siamo ritrovati anni dopo e I Wonder è veramente la cosa più bella che poteva capitare a questo film. Ovviamente è un piccolo film, quindi faremo una tournée in Italia presentando il film al pubblico per poter poi uscire in sala in modo più diffuso. In quante sale? Questo adesso non lo so, so solo che è stata la prima a Bologna, poi ci sarà il 22 a Milano, Beltrade, poi a Roma il 27 settembre al Cinematografe, Venezia a Roma, poi ci sarà il 14 ottobre a Torino e poi da lì insomma ci saranno delle date un po' in tante città d'Italia e poi l'uscita più massiccia. Questa è la strategia di cercare di fare un parola e poi il film pubblico in modo più largo. Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo? Sul sito di I Wonder potete trovare tutte le date della film italiana. Il film Frammenti di un percorso amoroso al cinema da giovedì 14 settembre 2023, distribuito dai Wonder Pictures. Un saluto e un ringraziamento alla regista Chloé Barreux. A presto! Grazie! Con Barbara Cupisti, regista del documentario Wartime Notes, a Milano al Festival Visioni dal Mondo venerdì 15 settembre e su Rai 3 sabato 16 settembre 2023 per poi andare su Rai Play. Ben trovata! Ciao, ciao Federico, buongiorno! Di cosa si tratta? Già come vedi dal titolo, Wartime Notes, sono note in tempo di guerra, ok? Quindi diciamo che è un film che è legato in qualche modo al mio film precedente, anche se non si può parlare di un seguito dell'altro perché non è quello, però è legato. Ti ricordi il film precedente? Era Hotel Sarajevo, sì. Quello che avevo fatto lo scorso anno, per i 30 anni del assedio di Sarajevo. Quindi noi stavamo montando Hotel Sarajevo e stavo lavorando continuamente con le immagini di repertorio di Hotel Sarajevo che mi erano state date da Niad e che erano pazzesche perché erano immagini che venivano direttamente dalle persone comuni. Ti ricordi che in quel periodo era stato chiesto per l'appunto alle persone comuni di girare le immagini della loro quotidianità sotto assedio. Quindi erano immagini private di persone e nello stesso momento che noi stavamo montando quelle è cominciata l'invasione dell'Ucraina, da Kherson a Mariupol, e in giro nel web c'erano tantissime immagini di persone, perché proprio c'è, grazie a Dio, anche la possibilità di vedere materiale di prima mano e in tempo reale. C'erano queste immagini che arrivavano da quei luoghi, quindi era incredibile come 30 anni dopo le immagini, le sensazioni, i colori, i suoni fossero esattamente gli stessi. E quindi sia io che il mio montatore siamo tutti rimasti impressionati, no, da quanto veramente in 30 anni non fosse cambiato niente. E quindi la prima cosa che ho detto, bisogna andare, anche perché Hotel Sarajevo era sul post-traumatic stress disease, quindi era sulle conseguenze di un trauma di quel genere nelle generazioni future, no? E quindi la prima cosa che mi è venuta in mente, ho detto, Madonna, bisogna andare un attimo a capire, a vedere come stanno affrontando gli ucraini questa situazione. Quindi non è un film sulla guerra, ma sono note. Io sono andata, ho incontrato una persona, ho avuto la grandissima fortuna di essere messa in contatto immediatamente con una ragazza eccezionale che si chiama Tatiana di Kherson, e lei si occupava della resistenza a Kherson. Lei è una che parla russo, è una che lavora oltretutto in una redazione di un giornale, quindi è una persona pazzesca, trentenne, e lei ha cominciato a mandarmi queste sue note, mi ha cominciato a mandare dei video diari già un mese dall'inizio dell'invasione. Ho chiuso il film marzo-aprile, abbiamo chiuso aprile credo, quindi dopo un anno e qualcosa dall'inizio. E però ecco, l'avrei potuto tenere aperto perché lei adesso sta al fronte, si è arruolata, e che poi attraverso lei ho incontrato anche altri personaggi. Però noi siamo andati, abbiamo fatto tutto un percorso all'interno dell'Ucraina da luglio-agosto dello scorso anno fino a gennaio-febbraio di questo. Ecco. Che impressioni ne hai ricavato? Spesso il mio lavoro mi porta in zone critiche, però di solito sempre visto, a parte all'inizio con Madri e con Vietato Sognare, dove stavo nei territori occupati, in Palestina, a Gaza, dove c'erano ancora azioni e ci sono purtroppo tuttora azioni pesantissime nei confronti dei civili, oppure appunto quando ho fatto esuli che andavo nei campi profughi con la gente appena uscita dalla Siria, no? Però essere veramente nel epicentro di un conflitto dove ha gli allarmi che suonano ogni quarto d'ora, dove ti devi andare a mettere nei bunker o ti devi andare a nascondere o dove metti a rischio la tua vita ogni volta che c'è un allarme, ci sono queste sirene che suonano. La cosa che mi ha colpito di più sono i suoni, perché ci sono queste sirene continuamente. È come se tu fossi a Roma, perché poi la vita continua, cioè non è che la gente si... Dopo un po' sai com'è l'essere umano, si assuefa. Noi le immagini che vediamo nei TG sono le immagini dei centri dove i combattimenti sono avvenuti, dove io sono anche andata, e logicamente distruzione, quello che sono le tipiche immagini che si vedono dalle guerre. Però la vita nelle grandi città un pochino più lontane dal fronte continua normalmente, come potrebbe continuare a Roma. Quindi la cosa che è veramente impressionante è vedere come in mezzo a una situazione del genere poi alla fine l'essere umano sia capace di adeguarsi e diventi assuefatto, hai capito? Io il primo giorno che ho sentito un allarme ero terrorizzata, perché dici, Madonna, ora che succede, capito? Anche se sono abituata, però che succede? Invece poi nel giro di un po' di tempo diventa una assuefazione, manco ti nascondi più, continui a fare le tue cose e dici, vabbè, se mi cadrà un drone sulla testa, mi cadrà un drone sulla testa. E quindi ecco, la cosa che mi ha colpito è stata proprio questa capacità di adattamento dell'essere umano a delle situazioni di crisi e come poi alla fine di ogni esperienza, anche queste così negative, noi abbiamo la capacità di trarne degli insegnamenti. E si va avanti, ecco. Quindi è un film sulla difficoltà e su quello che ti può venire questo tipo di esperienza, sulla resilienza, che è una parola che non voglio usare, però mi tocca usarla, e sulla capacità di resistere a tutto quello che può avvenire da una situazione di questo tipo. Una cosa che vorrei sottolineare è che il film è narrato dal punto di vista femminile, non è soltanto in Ucraina, parte da Varsavia, dove gruppi di donne si sono organizzate per mandare gli aiuti dentro l'Ucraina, si entra poi in Ucraina a trovare Tatiana a Odessa, da Odessa ci si sposta a Lviv, da Lviv ci si sposta a Kiev, a Borodjanka, a Bucha, a Irpin. Però diciamo che è un racconto della resistenza, c'è anche un protagonista maschile e è stranissima questa cosa perché il protagonista maschile è la vittima di guerra, che un pochino è come ribaltare quello che è di solito la concezione, l'accezione nostra, no? Di vedere la vittima di guerra come una donna, invece la vittima di guerra è un uomo che è un direttore d'orchestra, motivo per cui non è al fronte, e tutto intorno gira questo mondo femminile di donne molto, molto attive, molto combattive, che portano avanti la resistenza, che portano avanti il messaggio da parte del popolo ucraino per il resto del mondo. Il documentario Wartime Notes a Milano al Festival Visioni dal Mondo venerdì 15 settembre, su Rai 3 sabato 16 settembre 2023 e poi su Rai Play. Un saluto e un ringraziamento alla regista Barbara Cupisti. A presto! Ciao Fede, grazie! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.